amiche e amici del Move to Groove. 30 ottobre 1981, debutti importanti in NBA. Isaiah Thomas. I due ragazzi meraviglia, Rolando Blackman e Mark Aguirre, e un trio di lunghi niente male. Pac Williams, Larry Nance e Jeff Roland. Ah, ci manca qualcuno? Ci buttiamo un tiratore? Beh, c'è anche Kelly Tripucca. Buongiorno a tutti. Grazie Paolo per questa palla a due, una palla a due che ha portato una formazione con la quale si può tranquillamente andare oltre che i playoff e aspirare a qualcosa di più. Abbiamo la ricorrenza di ogni santi e avere a fianco a me Pietro e Paolo è qualcosa di veramente magico. Intanto do il buongiorno, oltre che a Paolo che interverrà da remoto, già redattore votivo, e so bene che non si offenderà con questa definizione, tutt'altro. Quindi Pietro, lascia le tue reti, seguimi, ti farò pescatore di uomini. Buongiorno Pietro. Buongiorno Willy, buongiorno a tutti. Grazie per la levataccia, perché la presenza di un giovane, di uno juniores che ormai è in prima squadra, perché giustamente ha la possibilità di essere cerniera con una pallacanestro più recente, e nello stesso tempo non manca la passione anche per quello che è stato un passato che è sempre costantemente il presente del Mood Groove, con questi esordi, con il compleanno di Terry Tyler, il grande atleta, saltatore, un vero recupero, un rubapalloni incredibile, palle vaganti tutte sue, un giocatore per i Detroit Pistons nel draft del 1978 che ha visto una serie di atleti quanto mai importanti anche per l'Italia. Ne cito qualcuno: Reggie Theus, che poi sarà a Varese, Mike Mitchell, che poi sarà a Reggio Emilia, Rod Griffin, che poi sarà a Forlì, James Hardy, che andrà a Siena, Marty Byrnes, prima a Verona, poi a Bologna, insomma Clemon Johnson a sua volta a Bologna, Michael Ray Richardson, Sugar, che viene scelto come numero 3 nel 1978, pensate un po', addirittura davanti al più grande di tutti i tempi, che sarà al numero 6, cioè Larry, the Legend Bird. Sembra un caso, Pietro, però un caso non è. Abbiamo la ricorrenza e la commemorazione che ha redattori votivi come noi nel cuore sta del 2 novembre, quindi oggi vogliamo portare un fiore e un ricordo a tutti i grandi cestisti che non ci sono più. Tu ne hai citati così alcuni che addirittura mi hanno dato ispirazione per la scrittura dell'odierno Mood Groove. Iniziamo da chi non ha mai giocato, ma che poteva essere veramente qualcuno che cambiava la storia della pallacanestro. Di chi stiamo parlando, Pietro? Parliamo di Len Bias, alla piccola guardia di 2-3 per 95-96 kg, che viene scelto nel draft dell'86 dai Celtics al numero 2. E come dire, per tanti doveva essere il nuovo Michael Jordan, o quantomeno il rivale che Michael Jordan poi non ha mai avuto, perché Drexler non è stato considerato tale e altri coetanei non sono mai arrivati a livello appunto di MJ. Len Bias sembrava dovesse arrivarci appunto per il talento espresso al college, ma scompare prima ancora di giocare una singola partita in NBA con i Celtics per un'overdose da cocaina. Dubbia, sì, non si riesce a capire se fosse stato un eccesso o un destino cinico e barro, esatto. In questo caso, in quanto Len Bias ha assicurato i Celtics, che sapete bene per quanto riguarda un certo aspetto comportamentale sono assolutamente rigorosi, è un bravissimo ragazzo, è un ragazzo che oltre al talento ha anche una certa disciplina e una voglia di migliorare. È un giocatore di cui vi parlerò tecnicamente a breve, prima lo stacco musicale e il primo fiore che porteremo a Len Bias, che non ha mai visto un parquet della NBA, nonostante questo talento immenso. Si dice, dopo il draft abbia festeggiato, e non so, l'ipotesi più accreditata è che abbia voluto provare una volta. E beh, quella volta è stata fatale, è stata incredibilmente fatale per un giocatore di cui, dopo aver posato questo fiore, Looking to the Flower, e il disco da cui ho tratto questo brano di Bobby Humphries, vi parlerò, perché per un grande giocatore, noi di solito diciamo può giocare interno, esterno, ha una grande fisicità, una intelligenza cestistica, un'intuizione, ma ci vuole, secondo me, anche qualche originalità particolare che lo rende unico e speciale. Ve ne parlerò a breve. Len Bias l'aveva, e come? Flower, oggi i fiori, i giardini sono ricorrenti e i depositi della memoria, con un'attenzione ambientale ne danno una possibilità spirituale oltre che concreta, e noi vogliamo portare un ricordo a questi atleti. Sfortunatissimo quanto talentuoso, viene scelto nel 1986 come seconda scelta assoluta. I Boston Celtics acquistano i diritti da Seattle e prendono Len Bias, che non riuscirà, come abbiamo detto, nemmeno a giocare una partita nella NBA. La prima scelta, per la cronaca, fu uno degli ultimi centri, ne abbiamo parlato la puntata precedente, a Cleveland, Brad Daugherty, giocatore tecnico, mani d'oro, a proposito di caratteristiche originali, Ok, giocatore completo Len Bias, la caratteristica che lo rendeva unico e speciale dopo averlo visionato più volte, i movimenti sulla baseline, e giustamente Pietro mi ha chiesto, ma con o senza palla? E già qui la domanda ha lasciato adito a una lucidità cestistica per la giovane età quanto mai interessante e curiosa, no? Sia con la palla che senza palla, il gioco in backdoor senza palla, l'uno contro uno prendendo la linea di fondo con una grande reattività, riuscire a togliere l'attenzione spostando la difesa, perché quando l'aiuto va sulla linea di fondo si sguarnisce il centro e sono due punti assicurati sulla linea di fondo, che certo per i grandi difensivisti è il difensore aggiunto, no? Si dice metti un piede oltre la linea di fondo per non far entrare e prendere quella posizione fondamentale, ma se viene presa vi assicuro che sono disastri per la difesa e sono due punti assicurati. assicurati. Ecco, la capacità di Len Bias, unica e speciale, è proprio questa: una grande capacità nel backdoor e nel prendere il fondo prima del difensore, e a quel punto l'aiuto vi posso assicurare che non c'è, e se c'è è un ulteriore disastro. Len Bias fosse anche più forte di Michael Jordan, almeno a livello collegiale. Di sicuro, se fosse approdato in NBA, Larry Bird si sarebbe ritirato molto prima, perché nel ruolo di ala piccola sarebbe stato coperto per un altro decennio, e poi ci aggiungere anche quel Reggie Lewis, altro ragazzo che ci ha lasciato, che avrebbe formato in guardia tiratrice una coppiata veramente vincente per la squadra bianco-verde. Draft disastrato quello dell'86, ribattezzato anche il draft dei tossicodipendenti, perché ci mettiamo anche Chris Washburn, gran talento, e anche lui purtroppo a sostanze illegali ci dava dentro parecchio. Lo so, è una brutta nomea, però veramente non fu un bel draft quello lì, molto sfortunato. Molti infortunati, gente che poteva rendere tanto ma alla fine ha reso poco per via di sfortune legate al mondo extracestistico. In effetti Larry Bird, con gravissimi problemi alla schiena dopo aver vinto tutto e avendo visto questo grande talento, dice: ok, faccio la chioccia per un anno e do assistenza a questo grandissimo talento. Così non è stata, la sfortuna si è accanita sul club sulla franchigia del Massachusetts, in quanto Reggie Lewis ha poi purtroppo avuto anche lui una triste sorte con un arresto cardiaco improvviso. Anche lui giocatore fenomenale, cioè importante in attacco, un giocatore terminale offensivo, una guardia con una mano pericolosa, fondamentali in avvicinamento a canestro, assolutamente pericolosi a sua volta, e una fisicità completa che lo poteva portare anche a giochi di mismatch assolutamente vincenti. Reggie Lewis e Len Bias sono i nostri due primi atleti, ma per quanto riguarda quel draft mi hai ricordato che c'era anche un europeo all'interno. Di chi stiamo parlando? Di Drazen Petrovic. Anche lui sfortunatissimo, esatto. Giocatore fenomenale, l'attaccante per eccellenza, probabilmente la guardia europea più forte di tutti i tempi, il Mozart dei canestri. Che vago ricordo ne hai, vista la tua giovane età, di Drazen Petrovic? Il documentario, di cui ora non ricordo il nome, Brothers qualcosa, riguardo il suo rapporto con Vlade Divac, sì. E come lo stesso sia stato distrutto dal conflitto jugoslavo. Ma una bella storia, bellissima storia. Cestisticamente visto poco, un po' ai Nets, sì. C'è questo aneddoto, non mi ricordo il difensore che dice che... Ma qui abbiamo Paolo, che abbiamo arriverà, Paolo. Arriverà in tuo che questo difensore che fa trash talk, lo offende e dice: nessun bianco mi batterà mai in uno contro uno, e Petrovic fa oltre 40 punti dimostrando, sì, fondamentalmente una superiorità intrinseca nel suo gioco. Light my fire, accendiamo luci votive quest'oggi, oltre che grandi talenti, e questo brano che, come ben sapete, no? Doors, ma rivisto da Minnie Riperton. A tra poco. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Let's try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we only lose, and our love become a funeral pyre. Oh, come on, baby, light my fire. fire, yeah. Come on, baby, light my fire. Let's try to set the night on fire. Questa svolta è Light My Fire che va a sfiorare note Boogaloo per Minnie Riperton. Accendiamo queste luci votive oggi nell'avvicinarsi della commemorazione per chi vive in un'altra dimensione, perché come dico spesso i cimiteri, i depositi della memoria sono posti già illuminati di loro e oltretutto giardini meravigliosi dove le micro sensazioni e gli insegnamenti arrivano veramente a dei livelli oltre che spirituali in maniera concreta, e quindi questa passeggiata a trovare il ricordo di grandissimi cestisti, Len Bias, Reggie Lewis, Drazen Petrovic, e tutto ciò viene spontaneo da un collegamento anche dai draft, dalle scelte. Scelte nel 1978, pensa a Terry Tyler quanta ispirazione ha dato, ha portato dei ricordi di atleti che sono passati per l'Italia. Lo stesso Terry Tyler è stato a Cremona a termine carriere, anche a Trieste, come ho detto, giocatore importante, un power forward, definito uomo di ferro perché le prime quattro stagioni ha giocato 82 partite su 82 all'interno della regular season. Grande atleta, saltatore, capacità di intuizione, un istintivo, stoppatore, rimbalzista, palle vaganti e anche una mano molto educata. Che sorprese lasciano i draft? Beh, che troviamo dei grandissimi campioni che vengono scelti al secondo, al terzo giro, ma chi l'avrebbe mai detto? Ad esempio, uno dei più grandi playmaker, Maurice Cheeks dei Philadelphia 76ers, viene scelto al secondo giro e con un numero veramente alto di scelte, quindi a livello di college non proprio così considerato. Per me, nel mio dream team personale, Maurice Cheeks c'è a fianco di Magic Johnson e Isaiah Thomas, è un giocatore fenomenale, addirittura sceglierei Maurice Cheeks piuttosto che Isaiah Thomas, ma questi sono pareri personali, insomma qua potremmo dibattere ad oltranza. Erano i nostri discorsi adolescenziali, devi sapere. Si parlava di donne? No, di draft NBA. Giustamente. Oh, baby, baby, baby. When you talk to me. sitting low. Quella fu una diatriba con il grande Reggie Miller, che al primo incontro contro Dragan Petrović busca un trentello, un quarantello, adesso va da memoria. Adesso Reggie Miller è grande difensore, tra virgolette, però sì, Dragan Petrović si fece rispettare, ma anche lui dovette subire poi la dura legge NBA. Ricordiamo che partì veramente in sordina, giocò, ai tempi di Portland giocava veramente poco, e comunque la sua lingua lunga ogni tanto gli provocava anche dei problemi, perché andava a provocare gente veramente veramente forte. Ricordiamo Jordan l'ha letteralmente umiliato in alcune partite NBA, proprio gridandogli in faccia: tu non puoi marcarmi, non ce la puoi fare. E poi ricordiamo anche i vari scontri alle Olimpiadi di Barcellona 92, dove Jordan e il suo compagno amicone Scottie Pippen fecero fare parecchie figuracce ai croati, in primis proprio Dragan Petrović e soprattutto anche Toni Kukoč. Un giocatore d'energia, il re delle hustle play, come si dice in NBA. Personalmente rapporto centimetri stoppati, forse il più grande stoppatore sì, è tutti vero. I tempi. E Terry Tyler, buon compleanno quindi, perché non ricordiamo, come ben sapete, la commemorazione nel Mood Groove porta anche ricorrenza di esordio e di draft. Il draft di Terry Tyler è il 1978. Tra le scelte che incredibilmente sono state portate più a fondo draft c'era anche Coop, uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, e a tal proposito arrivò in Italia, a Roma, e a sua volta è stata una sorpresa bellissima e una possibilità di vedere un grandissimo campione. Dan Peterson ha sempre detto: se io potessi scegliere un giocatore, chiaramente Magic Johnson, Julius Irving, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, ok, non posso scegliere questi, ma se dovessi scegliere un giocatore io vorrei Michael Cooper. E Michael Cooper, Pietro, tu stesso mi hai detto che è stato protagonista in relazione a un fenomeno che non c'è più. Kobe Bryant. Michael Cooper nel 96, anno in cui Bryant viene scelto al draft, lavora per i Lakers come assistente di Jerry West, che ai tempi è il general manager di Los Angeles, appunto, e per i, come li chiamano loro, i famosi pre-draft workout, dove fanno i provini fondamentalmente ai giovani, che siano del liceo o del college. Jerry West chiede a Michael Cooper, che, come ha detto Willy, difensore fenomenale, colui il quale Larry Bird ha definito il miglior difensore sì. con cui ha mai giocato, cui abbia mai giocato. Jerry West chiede appunto a Cooper di difendere su questo ragazzetto, nemmeno maggiorenne ai tempi, tra l'altro, che era Kobe Bryant, e a fine del workout, mezz'oretta di allenamento di uno contro uno, Michael Cooper è distrutto, è zuppo di sudore, e dice a Jerry West: guarda, questo è forte, questo va preso, dobbiamo prenderlo assolutamente. E così è stato. Allora, caro Paolo, che facciamo? Lo prendiamo ai draft? Pietro Rossi per Radio Città Fujiko nel Dream Team del Mood Groove. Io direi di sì, noi rientriamo e poi parleremo del grande Kobe Bryant, anche di un aspetto un pochettino, come si può dire, ma del resto un grande campione, è un po' esuberante, Kobe, un po' esuberante. A tra poco, Mood Groove, speciale 2 novembre sul parquet. The battle line's being drawn. Nobody's right, everybody's wrong. Young people speaking their minds. But they are getting so much resistance from behind. Stop drooling, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. There are 1,000 people in the street singing songs. I think it's time we stop tooling. What's that sound? Everybody look what's going down. Stop tooling. children of what's that sound? Everybody look what's going down. It's going down now. Che puoi, scherza pure coi santi, ma tanto prima o poi dovremmo morir tutti quanti. Dalla sposa cadavere, un film a cartone animato bellissimo. E infatti ho messo Hold On, I'm Coming. No, e mi collego a un ricordo recentissimo e mando a tutti i partecipanti il mio più caloroso abbraccio per questa esperienza. Di esperienza si tratta. Un ragazzo che per motivi di lavoro ha lasciato il Polesine per trasferirsi in Costa Azzurra e aprire un'attività, improvvisamente scomparso. Le spoglie mortali ritornano in Polesine esattamente a taglio di Po. Tutte le amiche e gli amici, alcuni non si vedevano da tempo, si riuniscono e il momento di emozione, commozione, dolore, struggimento è veramente forte. Ma è stato accompagnato in seguito alla funzione dove le campane non hanno suonato a morto, dopo poi con un motivo di aggregazione è nata una bellissima festa. Sempre con il ricordo, chiaramente sempre con l'introspezione, ma che con un grande abbraccio e un sorriso ha riunito queste ragazze e ragazzi che mi hanno dato una grandissima lezione di vita. Nasconderti, lo sappiamo tutti che il tuo uomo in playmaker è il grande Dennis Johnson. Io però metterei anche... Norm Nixon, nello squadrone. Beh, lì, abbiamo preso lo steal of the draft. Yeah. Mettono subito sotto contratto, ottimo lavoro. Mi ricollego alla faccenda di Kobe Bryant e Michael Cooper. Ai tempi i Lakers, secondo me, avevano il nuovo Michael Cooper ed era un giocatore che si chiama Eddie Jones, purtroppo sacrificato per un monte salari troppo elevato, si erano appena svenati per portare Shaq in California. Ma Eddie Jones, signori, aveva tutte le carte in tavola per diventare quello che era Michael Cooper per lo Showtime. Lui lo poteva diventare per quel tripit Lakers a inizio 2000, giocatore difensivamente fantastico, non ti danneggiava neanche in attacco perché la sapeva mettere nel canestro, ma purtroppo non si è voluto adeguare l'ingaggio e decise di prendere altre strade. Un vero peccato, perché secondo me i Lakers, un'altra anellina in più con Eddie Jones in squadra, l'avrebbero conquistato. Allora, sono tutti atleti che io non ho mai visto giocare. Ho visto che a questo intervento di Paolo, che ringrazio tantissimo, tu Pietro hai sorriso e hai anticipato con il labiale il giocatore. Ci puoi dire qualcosa di più? Eddie Jones, guardia, appunto, gioca nello stesso ruolo di Bryant, guardia tiratrice dei Lakers di fine anni 90. Anche su di lui c'è un aneddoto sempre relativo al Bryant che deve entrare in NBA. Bryant di Philadelphia, anche Eddie Jones di Philadelphia, fanno delle partitelle insieme a un college o un liceo, non ricordo bene, della zona di Philadelphia, e Eddie Jones dice: chi è questo ragazzino strafottente, perché appunto Bryant è sunto di strafottenza non da poco. Fanno questa partitella in uno contro uno e Bryant lo distrugge, nonostante Eddie Jones sia già un prospetto NBA di alto livello. E Eddie Jones dice: questo lo rivedrò tra qualche anno, cosa che poi è successa, l'ha rivisto bene, ecco, non solo come compagno ma anche come avversario. Rookie of the Year, Pietro Rossi. Da remoto Paolo Onofri per il Mood Groove di oggi, che prosegue allora con Paolo, che ha citato un altro grandissimo che nel cuor mi sta, giocatore. Pensate che quello che per me è stato il più grande giocatore di tutti i tempi, cioè Larry Bird, ha definito Dennis Johnson il più grande giocatore col quale io abbia mai giocato. Ma di Dennis Johnson faccio solo un piccolo appunto tecnico e non voglio annoiare, perché ne stiamo parlando assai di tecnica, ma è giusto così, quando ci si ritrova poi è giusto. Dennis Johnson, Paolo, per me è da mettere vicino a un giocatore e una guardia atipica. Cioè, faccio un esempio, il meglio l'ha dato vicino a Danny Ainge, che non è esattamente né un portatore di palla né una guardia tiratrice, ma può essere entrambi. Faccio degli altri esempi, un Reggie Theus, ecco, anzi sarebbe perfetto perché porta quell'ordine, quell'aspetto di intercambiabilità. Io non lo vedo come una... Può giocare ampiamente, se può giocare point guard, ma secondo me è un giocatore come Sidney Moncrief. Ecco, tra Dennis Johnson e Sidney Moncrief io per motivi di cuore scelgo DJ, ovvio, però per dare un'idea, oppure nei tempi più recenti Joe Dumars. Ecco, sono quei giocatori che possono portare palla, ma non li metto in quella posizione, li metto vicino a un giocatore che può portare palla ma che è atipico per il ruolo. Ecco, guarda caso il grande Danny Ainge, anche lui giocatore fenomenale, è stato nei grandi Celtics del 1986 in uno starting five che era veramente non storia della pallacanestro, ma neanche dello sport, dell'arte, della cultura. You gotta help me, please. Doctor, doctor. just a little blind. You see, I know that she's a whore, but I know. Josh è di Pompano Beach, California, se vado a memoria, credo, sì, ma lui giocava a tempo al sobborgo di Filadelfia all'università. E sì, si incrociava con Kobe Bryant, che ai tempi veniva fuori dalla high school, lui che è nativo proprio di Filadelfia. Bravissimo Willy, ricordiamo, DJ, era poi la guardia tiratrice di quei Seattle Supersonics, campione NBA del 79, record con il grande Gus Williams. Esatto. Non è casuale, ecco, infatti Gus Williams, un portatore di palla realizzatore, la freccia verde, il mago, the wizard. È giusto portare anche un fiore in ricordo a DJ. Ah, buongiorno a te Lino, è chiaro, non te l'ho detto prima, ma se volevi rendere omaggio a qualche atleta, certamente, oppure ascoltatrici e ascoltatori, 333-180-9494. Sentite un po' qual è il rimedio per questi problemi d'amore che ha la bicifre. Lui va dal medico e dice: ho dei problemi perché, insomma, sono innamorato ma non sono corrisposto, sto soffrendo tantissimo, problemi in questo caso di cuore ma non cardiaci, di sentimento. La soluzione la troverà dal medico stesso, perché non è un dottore, è una dottoressa. E quindi nel testo del brano Doctor Doctor il protagonista si innamora del medico e risolve ogni suo problema. Could you repeat that, please? Con Kobe chiudiamo, caro Pietro, intanto ti ringrazio tantissimo per la tua partecipazione. Chiudiamo la nostra passeggiata votiva, anche se ovviamente ci sarebbe da citare un'infinità di campioni che ora sono nel playground celeste. Cito Darryl Dawkins, che è, come ci vuole un centro, no, nella nostra formazione. Thunder of Chocolate. Kobe Bryant, figlio d'arte di Joe Bryant, Philadelphia 76ers, presenza, e poi in Italia dominante realizzatore Jelly Bean Bryant. Arriverà dopo Rieti, arriverà a Reggio Emilia. Sentite che dice: she's a lady doctor. And I get the song. Now if your lady treats you mean, we'll get on down to where I've been. Ta-da! And get a lady doctor. Eccolo, abbiamo risolto l'arcano, abbiamo trovato anche la soluzione per il brano di Levi Schiffer che ci porta alla conclusione. Sulla tragedia del grande Kobe Bryant, è veramente è l'esempio della caducità della vita, secondo me. Puoi essere il più grande di tutti i tempi, ma ci sono tante riflessioni da fare sulla scomparsa di Kobe Bryant. Addirittura avevano intimato di non alzarsi in volo perché la nebbia era veramente preoccupante. Beh, Kobe, io sono Kobe Bryant, sono più forte anche, addirittura portando poi anche la figlia, quindi è stata una tragedia familiare grandissima. Le intemperie non hanno certamente pietà anche per il più grande giocatore del momento. Una severa, irreparabile lezione che arriva e invita a restare comunque sempre consapevoli, ma siamo già nel passaggio dalla Michael Jordan in avanti, ci sarà, diciamo, più supponenza anche per quanto riguarda questi atleti, e avremo modo di parlare anche di questo all'interno del nostro Mood Groove. Siamo arrivati alla conclusione, io ringrazio tantissimo Paolo Onofri per gli interventi da remoto aspettandolo in diretta. Myself. Sta arrivando sopra il cielo della nostra città qualche riflesso di luce. Daylight è il brano che ci porta alla conclusione nella playlist di oggi dedicata al parquet celeste. Pietro, io ti ringrazio tantissimo, sei stato l'apostolo per eccellenza. Grazie. Ringraziamo te, Will. Grazie Pietro. Appuntamento magari al prossimo Mood Groove, ok? Assolutamente. E a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fugico, mattiniere e mattinieri, a breve ricordo Edipo Enciclopedico, Liberi Dentro, rassegna stampa, vinile quotidiano curato e condotto da Andrea Gozza. Domani un momento di pit stop e poi andiamo in mostra nella rubrica del giovedì. A tutte e a tutti un buon ascolto e una buona giornata. Ciao ciao ciao, ciao.